Capitolo 38 Rose rosse. Quell'agosto il giardino della casetta era popolato dalle api e imporporato dalle rose tardive. Gli abitanti della casetta vi passavano molte ore e avevano preso l'abitudine di consumare una cena sull'erba nell'angolo verde al di là del ruscello o di restarvi a chiacchierare nelle ore dell'imbrunire, quando le falene attraversavano in volo l'aria violetta. Una sera Owen Ford vi trovò Leslie tutta sola. Anna e Gilbert non c'erano e Susan, che avrebbe dovuto rientrare quella sera, non era ancora arrivata. A nord, sopra le cime degli abeti, il cielo era color ambra e verde pallido. L'aria era fresca perché settembre era vicino e Leslie indossava uno scialle rosso sopra l'abito bianco. Passeggiarono in silenzio lungo i noti vialetti traboccanti di fiori. Owen era vicino alla partenza, la vacanza volgeva al termine. Leslie sentiva il cuore batterle in petto all'impazzata, sapeva che in questo giardino tanto amato si sarebbero scambiati la promessa che li avrebbe legati per sempre. «In certe serate uno strano profumo pervade l'aria di questo giardino», disse Owen. «È un'essenza evanescente, non sono mai riuscito a scoprire a quale fiore appartenga. È inafferrabile, penetrante e dolcissimo. Mi piace immaginare che sia l'anima della nonna Silwyn, scesa in visita al posto che amava tanto. Devono esserci molti fantasmi, amici, in questa vecchia casetta». «Ho vissuto qui solo un mese», disse Leslie, «ma voglio bene a questa casa come non ne ho mai voluto alla casa dove ho vissuto per tutta la vita». «Beh, è stata costruita e benedetta dall'amore», disse Owen. «Case così esercitano per forza un influsso su chi ci vive. E questo giardino ha più di 60 anni e nei suoi fiori è scritta la storia di 1000 speranze e di 1000 gioie. Alcuni di questi fiori furono piantati dalle mani della moglie del maestro. È morta da 30 anni, ma ogni estate fioriscono. Guarda quelle rose rosse, Leslie. Spiccano su tutto il resto». «Adoro le rose rosse», disse Leslie. «Anna preferisce quelle rose e Gilbert quelle bianche, ma a me piacciono le rose rosse. Soddisfano un mio bisogno interiore più di ogni altro fiore». «Queste sono rose tardive. Fioriscono dopo le altre e racchiudono in sé il calore e l'essenza dell'estate giunta alla pienezza», disse Owen sfiorando i boccioli semiaperti. «La rosa è il fiore dell'amore, si dice da secoli. Le rose rosa sono il fiore dell'amore trepido e pieno di speranza, le rose bianche dell'amore perduto o tradito, ma le rose rosse, ah, Leslie, le rose rosse, quale amore incarnano?» «L'amore trionfante», disse Leslie a bassa voce. «Sì, l'amore trionfante è perfetto. Leslie, sai, sì, lo sai, ti ho amata dal primo momento che ti ho vista e so che tu mi ami, non c'è bisogno di chiederlo, ma voglio sentirtelo dire, tesoro mio». Leslie mormorò qualcosa con voce tremante, poi unì le mani e le labbra a quelle di lui. In quel momento supremo, nel vecchio giardino che aveva visto amore, gioia, dolore e felicità, l'uomo depose sul capo biondo della donna la rosa rossa dell'amore trionfante. Poco dopo rientrarono Anna e Gilbert, accompagnati dal capitano Jim. Anna accese un piccolo fuoco nel camino per avere la compagnia di rose e fiammelle e il gruppo di amici si radunò intorno ad esso. «Davanti a un fuoco di legna piccola mi sembra di tornare giovane», disse il capitano Jim. «Sa leggere il futuro nelle fiamme, capitano?» chiese Owen. Il capitano Jim guardò tutti loro con affetto e fermò gli occhi sul viso di Leslie, animato di nuova vita. «Oh, non servono le fiamme per leggere nel vostro futuro», disse. «Vedo felicità per tutti voi, per tutti. Per Leslie e il signor Ford, per il dottore e Madame Blythe, per il piccolo Jem e i bambini che verranno dopo di lui. Felicità per tutti voi, anche se avrete certo le vostre preoccupazioni, i vostri guai, i vostri dispiaceri. È impossibile che non arrivino, visitano ogni casa, palazzo o casetta dei sogni che sia, ma non riusciranno ad avere la meglio su di voi, se li affronterete insieme con amore e fiducia. potrete resistere ad ogni tempesta, con l'amore come nocchiere e la fiducia come bussola. Il vecchio si alzò e pose una mano sul capo di Leslie e l'altra sul capo di Anna. «Ecco qui due donne buone», disse, «sincere, fedeli e degne di fiducia. Grazie a voi, i vostri mariti avranno meriti in cielo e i vostri figli sorgeranno a benedirvi negli anni a venire». La scena aveva una sua solennità. Anna e Leslie chinarono il capo come avessero ricevuto una benedizione. Gilbert si passò una mano sugli occhi. Owen Ford sembrava immerso in chissà quale visione. Per qualche tempo il silenzio regnò nella stanza. La casetta dei sogni aveva aggiunto un altro momento di indimenticabile commozione al bagaglio dei ricordi. «Devo andare ora», disse infine lentamente il capitano Jim. Prese il cappello e indugiò guardandosi attorno. «Buonanotte a tutti», disse uscendo. Anna, colpita dall'insolito tono di malinconia di quel saluto, corse alla porta. «Torni presto, capitano Jim», disse quando lo vide oltrepassare il cancelletto tra gli abeti. «Sì, sì», fece il capitano Jim allegramente, ma non si sarebbe più seduto accanto al camino della casetta dei sogni. Anna rientrò lentamente. Mi fa tanta pena pensare che torna tutto solo su quel promontorio isolato», disse, «e laggiù non trova nessuno ad accoglierlo. Il capitano Jim tiene tanta compagnia agli altri che si stenta a credere che non possa tenere compagnia anche a se stesso», disse Owen. «Ma deve essere spesso solo. Sembrava quasi un veggente stasera. Parlava come ispirato. Beh, anch'io devo andar via». Anna e Gilbert si ritirarono con discrezione, ma quando Owen fu andato via, Anna tornò da Leslie e la trovò in piedi, davanti al camino. «Oh, Leslie, so tutto e sono tanto contenta», disse circondandola con le braccia. «Anna, tanta felicità mi spaventa», sussurrò Leslie. «Sembra troppo grande per essere vera, ho paura di parlarne, fino anche di pensarci. Mi sembra che debba essere un sogno di questa casa dei sogni che debba svanire quando varcherò la soglia». «Beh, per ora non la varcherai, almeno finché Owen non verrà a prenderti. Resterai con me fino ad allora. Credi che ti rimanderei in quel posto triste e solitario?» «Oh, grazie, cara. Intendevo chiederti se potevo restare con te. Non volevo tornare laggiù. Mi sembrerebbe di ritornare al gelo e alla desolazione della vita di un tempo. Anna, oh, Anna, che amica sei stata per me. Una donna buona, sincera, fedele e degna di fiducia. Il capitano Jim ti ha descritto alla perfezione». «Ha detto donne e non donna», disse Anna con un sorriso. «Forse il capitano Jim vede con gli occhi parziali dell'affetto, ma perlomeno possiamo cercare di non deludere le sue aspettative». «Ricordi, Anna», disse Leslie lentamente, «quella sera sulla spiaggia, quando ti dissi che odiavo la mia bellezza? Era vero allora, pensavo che se fossi stata brutta Dick non mi avrebbe mai degnata di uno sguardo. Odiavo la mia bellezza perché l'aveva attratto verso di me, ma ora sono felice di essere bella. Non ho altro che la bellezza da offrire a Owen. Appaga il suo animo di artista, così mi sembra di non presentarmi a lui a mani vuote». «Owen adora la tua bellezza, Leslie, e chi non la adorerebbe? Ma sbagli se credi di non avere altro da dargli. Te lo dirà lui stesso e meglio di me». «Beh, andrò a chiudere la porta d'ingresso. Aspettavo Susan questa sera, ma non è tornata». «Oh sì, eccomi qui, dottora cara», disse Susan spuntando dalla cucina e con il fiato sotto le scarpe, se è per questo. «È una bella sfacchinata da Glenn fin qui». «Oh, sono contenta che tu sia di nuovo qui, Susan. Come sta tua sorella?» «Sta seduta, ma non può ancora camminare, naturalmente. Però se la cava benissimo senza di me, perché la figlia è venuta a casa in vacanza». «Grazie al cielo sono tornata, dottora cara. Matilda avrà anche avuto la gamba rotta, ma la lingua no di certo. Sarebbe capace di far perdere il lume della ragione a un genio a furia di parlare. Mi dispiace dire queste cose di mia sorella. Ha sempre avuto una gran parlantina, eppure è stata la prima a sposarsi. Non che ci tenesse tanto a sposare James Clough, ma non se la sentiva di deluderlo. James è un brav'uomo, però il solo difetto che gli trovo, dottora cara, è quella specie di gemito innaturale prima della preghiera che recita a tavola. Mi fa passare l'appetito, tanto mi spaventa. A proposito di matrimoni, dottora cara, è vero che Cornelia Bryant sposerà Marshall Elliot? Sì, verissimo, Susan. Beh, dottora cara, non mi sembra per niente giusto. Io non ho mai detto una parola contro gli uomini e non c'è verso che riesca a sposarmi. Cornelia Bryant non smette mai di criticarli e ha solo da alzare un dito e scegliere chi vuole. È proprio uno strano mondo il nostro, dottora cara. Ma c'è un altro mondo oltre a questo, Susan. Sì, disse Susan con un grosso sospiro. Ma dottora cara, là di matrimoni non se ne parla nemmeno. Capitolo 39. Il capitano Jim varca la barra. Un giorno, verso la fine di settembre, finalmente arrivò il libro di Owen Ford. Già da un mese il capitano Jim lo aspettava e si recava puntualmente ogni giorno all'ufficio postale di Glen. Quel giorno non era andato e Leslie ritirò anche la sua copia insieme alla propria e quella di Anna. Glielo porteremo questa sera, disse Anna emozionata come una scolaretta. La sera era limpida e magica e la passeggiata lungo la strada rossa della baia fu un incanto. Infine, il sole calò a ovest, dietro le colline, per raggiungere la valle del tramonto, e subito la grande luce sfolgorò sulla torre bianca del faro. Il capitano Jim non tarda di una frazione di secondo, disse Leslie. Né Anna né Leslie dimenticarono mai più il volto del capitano quando ebbe tra le mani il suo libro trasfigurato ed esaltato. Le guance, ultimamente tanto pallide, avvamparono del colore degli anni giovanili. Gli occhi si accesero del fuoco della gioventù, ma le mani tremarono nell'aprirlo. Si chiamava semplicemente Il romanzo vero del capitano Jim e portava i nomi di Owen Ford e James Boyd come collaboratori. Sul frontespizio c'era una fotografia dello stesso capitano Jim sulla soglia del faro, lo sguardo rivolto al golfo. L'aveva scattata Owen Ford durante la stesura del libro. Il capitano Jim lo sapeva, ma non sapeva che la fotografia sarebbe apparsa nel libro. Pensate, disse, questo vecchio marinaio in un libro stampato. Oh, non sono mai stato tanto orgoglioso in vita mia. Finirò per scoppiare, ragazze. Non riuscirò a dormire stanotte. Voglio leggere il mio libro da cima a fondo prima dell'alba. Andremo via subito e la lasceremo libero, disse Anna. Il capitano Jim era rimasto con il libro tra le mani, in atteggiamento estatico. Infine lo chiuse e lo mise da parte. No, non andrete via senza aver preso una tazza di tè con questo povero vecchio, ribatté. Oh, non se ne parla nemmeno, vero? Secondo, il romanzo non ne soffrirà, credo. L'ho aspettato per tanti anni. Ora può aspettare ancora un po', l'amicizia, prima di tutto. Il capitano Jim mise a bollire l'acqua e preparò il pane imburrato. Nonostante l'emozione, non si muoveva con l'agilità di un tempo. I movimenti erano lenti e inceppati, ma le ragazze non si offrirono di aiutarlo. Sapevano che l'avrebbero offeso. Avete scelto la sera giusta per venirmi a trovare, disse, prendendo una torta dalla credenza. Oggi la madre del piccolo Joe mi ha mandato un cestino pieno di cose dolci. Siano benedette le buone cuoche, dico io. Guardate che bella torta con la glassa e le noci. Non è roba da tutti i giorni per la mia tavola. Accomodatevi, accomodatevi, ragazze. Berremo del tè al buon tempo antico. Le ragazze si accomodarono con gioia. Il tè era all'altezza dei migliori del capitano Jim. La torta della mamma del piccolo Joe era la fine del mondo. Il capitano Jim si dimostrò un ospite perfetto e resistette alla tentazione di lanciare occhiate all'angolo dove faceva bella mostra di sé il romanzo, elegantemente rilegato in verde e oro. Ma Anna e Leslie sapevano che si sarebbe precipitato a riprenderlo non appena la porta si fosse chiusa alle loro spalle. Tornando a casa, si figurarono la felicità del vecchio davanti alle pagine che ritraevano la sua vita con l'immediatezza e il colore della realtà. Chissà se gli piacerà la fine che ho suggerito io, disse Leslie. Non l'avrebbe mai saputo. La mattina dopo Anna si svegliò presto e trovò Gilbert già vestito ai piedi del letto, con un'espressione preoccupata. «Ti hanno chiamato?» chiese assonnata. «No, Anna, ho paura che sia successo qualcosa al faro. Il sole è sorto da un'ora e la luce è ancora accesa. Sai che è sempre stato un punto d'onore per il capitano Jim, accendere il faro appena il sole tramonta e spegnerlo appena sorge.» Anna si mise a sedere, sgomenta. Al di là dei vetri vide la luce pallida dell'alba sullo sfondo del cielo azzurro. «Forse si è addormentato leggendo il romanzo», disse con inquietudine, «oppure ne è rimasto avvinto al punto di dimenticare la luce.» Gilbert scosse la testa. No, al capitano Jim non potrebbe succedere. Comunque vado a vedere. Aspettami un minuto, vengo con te, esclamò Anna. Sì, è meglio, il piccolo Jem dormirà ancora un'ora almeno e lo dirò a Susan. Forse ti servirà l'aiuto di una donna nel caso che il capitano Jim stia male. Era una mattina stupenda, dalle tinte e dai suoni a un tempo pieni e delicati. La baia era allegra e spumeggiante come una fanciulla. I gabbiani bianchi si libravano al di sopra delle dune e oltre la barra il mare splendeva e rifulgeva. I campi costieri erano freschi di rugiada nell'aria del primo mattino. Il vento giungeva fischiando dal canale a passo di danza, a sostituire il bel silenzio con una musica ancora più bella. Se non fosse stato per il chiarore inquietante sulla torre bianca del faro, quella passeggiata sarebbe stata una gioia per Anne e Gilbert. Invece camminavano in silenzio, preoccupato, quasi con paura. Nessuno rispose quando bussarono. Gilbert aprì la porta ed entrarono. La stanza era tranquilla. Sul tavolo c'erano i resti del piccolo rinfresco della sera precedente. Il lume era ancora acceso sul tavolino d'angolo. Il secondo dormiva in una pozza di sole vicino al sofà. Il capitano Jim era steso sul sofà con il libro sul petto. Teneva le mani intrecciate sull'ultima pagina. Aveva gli occhi chiusi e sul volto un'espressione di pace e felicità completa. Era l'espressione di chi ha finalmente trovato quel che cercava da tanto tempo. Dorme? Bisbigliò Anna con voce tremante. Ma Gilbert si avvicinò al sofà e si chinò su di lui, poi si raddrizzò. Sì, dorme, disse piano. Il capitano Jim ha varcato la barra. Non avrebbero mai saputo l'ora della morte, ma Anna era convinta che il suo desiderio fosse stato esaudito, che avesse esalato l'ultimo respiro al sopraggiungere del mattino sul golfo. Il suo spirito si era allontanato su quell'onda di luce, sorvolando il mare dell'alba color perla e argento, verso il porto dove lo attendeva la sua Margaret, al sicuro da tempeste e bonacce.